America, in the face of our common dangers. Ich bin ein Berliner. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. This is the most significant day of developments and really toward moving healthcare reform toward passage by Congress. There's still another step, of course. As you know, the House has voted. Soon the Senate will vote on this. And this announcement today that a deal has been struck to get all... Insomma, l'aria che tira a Washington dopo il voto al Senato, lasciatemelo dire, è dickensiana. Insomma, sembra davvero un racconto di Natale quello che sta andando in scena nelle sacre aule, no? Perché questo lavoro così contrastato, così discusso, in certi casi anche così odiato, che si sta portando avanti attorno alla necessaria riforma della sanità americana, improvvisamente ha preso una accelerazione che lascia intravedere in fondo a un possibile tunnel di impegni, lavori, accordi, insomma di frenetica attività, un voto la sera di Natale, un voto la sera di Natale che regalerebbe al paese, no, volente o nolente, poi non c'è problema, questa riforma come frutto definitivo, anche come regalo da parte della amministrazione Obama al termine di una delle più imponenti discussioni che siano state messe in atto nella capitale, da che Barack Obama ha deciso di abbracciare quello che era già stato in passato uno dei principali intenti delle amministrazioni democratiche. L'ultimo ad averci provato seriamente era stato Bill Clinton, insieme con la fattiva collaborazione di sua moglie Hillary nel 94, 14 anni più tardi. Di quando sta per scoccare Natale, a Barack Obama toccherebbe l'onore e anche come dire, il merito di aver portato in fondo, nonostante i molti compromessi, questa riforma. Intanto è arrivata all'una di notte, no, con un voto a sua volta controverso, il passaggio al Senato 60 a 40 di un testo carico appunto di compromessi. Tenete presente che i due nodi principali di disaccordo anche all'interno dello stesso Partito Democratico, ovvero la questione dell'aborto e la questione della public option, ovvero della partecipazione di una sigla assicurativa pubblica per contrastare e contenere i prezzi e le metodologie di offerta da parte delle sigle private per quello che riguarda le assicurazioni sanitarie, sono in realtà praticamente cadute sul terreno. Verrà messa una bella croce su queste due storie, perché Joe Lieberman, il senatore indipendente che molte gatte da pelare ha dato ai democratici in questi ultimi giorni, ha accettato di sostenere il progetto di legge solo alla luce praticamente della sparizione della questione di una public option. E al tempo stesso un altro personaggio venuto alla ribalta negli ultimi giorni, che si chiama Ben Nelson, un senatore democratico estremamente aggressivo sul tema dell'aborto, è stato alla fine convinto ad appoggiare la legge dopo un lungo negoziato che di fatto gli ha concesso la inclusione nella legislazione del divieto, il progetto legislativo del divieto di fornire agli assicurati interruzioni di gravidanza pagate con soldi pubblici. Ripeto, è ora a questo punto, tra l'altro vanno paragonati, un passaggio indispensabile è il paragone tra il progetto di legge che si sta ultimando in Senato con il progetto di legge che è uscito dal dibattito della Camera, ma queste sono complesse questioni procedurali a cui un po' tutti sono convinti si riuscirà a dare una forma corretta. Di fatto c'è l'esultanza dei democratici, c'è ieri nelle televisioni, anche stamattina nelle televisioni americane ricorre spesso il nome di Ted Kennedy come quello del senatore, no? Recentemente scomparso, ultimo erede del grande casato americano, che ha regnato lungo buona parte del XX secolo, ebbene Ted Kennedy si era speso veramente tanto e a più riprese a favore di una normalizzazione della situazione di assistenza sanitaria negli Stati Uniti d'America. E non a caso ieri la vedova Vicky era assistito al voto del Senato dalla galleria e poi ha rilasciato commosse dichiarazioni. Naturalmente su tutto ciò c'è l'ombra di Barack Obama, c'è l'impronta di Barack Obama e ne corre anche buona parte, no, della reputazione, della fama di Barack Obama come presidente, almeno per quello che riguarda il suo operato durante il 2009, se davvero per Natale i giochi fossero praticamente fatti, è innegabile che a suo nome andrebbe iscritto certamente un grandissimo, epocale, probabilmente storico successo. For the first time in history, all of the world's major economies have come together to accept their responsibility to take action to confront the threat of climate change. After extremely difficult and complex, siccome l'uomo è di quelli che mi sembra almeno di poter dire, adesso che siamo d'accordo o meno, ma che la paghetta se la guadagna, Barack Obama di ritorno da Copenaghen ha in un certo senso riferito agli americani quali sono stati i suoi personali, la sua personale visione, i suoi personali punti di vista sul summit di Copenaghen, così frastagliato, così sofferto, così apparentemente, no, sull'orlo di una crisi di nervi e forse di una vera e propria crisi internazionale fino a poche ore prima che si chiudessero i lavori. C'è molta discussione, ma tra i ben informati c'è anche la netta sensazione che la partecipazione di Obama al vertice sia stata tutt'altro che formale, ovvero che il ruolo giocato dal presidente americano nel portare in fondo dei risultati abbia effettivamente pesato, abbia contato. È uscito sul New York Times di oggi un editoriale a più mani, il punto di vista del giornale ufficialmente parlando, sulla questione, che devo dire riprende nei confronti del presidente un atteggiamento di consenso e anche di approvazione che da tempo non si vedeva verso Obama. L'editoriale è intitolato Copenaghen e oltre, ve ne traduco al volo qualche riga. Dice: il negoziato sul clima di Copenaghen non ha prodotto un grande successo, ma non è stato neanche il disastro che sembrava quasi certo all'altezza di venerdì pomeriggio. Nonostante 2 anni di preparazione, il meeting stava fallendo nel convertire questo difficile convegno di leader mondiali in un piano d'azione che fosse al tempo stesso ambizioso e raggiungesse un concordato attorno alla questione delle emissioni di gas serra. Alla fine ha prodotto in sostanza un accordo più morbido e temporaneo, questa è l'espressione usata dal New York Times, che almeno in termini di principio comunque dovrebbe essere utile per contenere i gas serra, per provvedere dei metodi di controllo riguardanti le emissioni delle diverse nazioni, per salvare le foreste pluviali, per proteggere le nazioni più vulnerabili dall'impatto del cambiamento climatico e soprattutto per suddividere i costi dell'operazione. Il lavoro è appena cominciato, dice ancora il New York Times, sia a Washington che altrove, ma, sottolinea il quotidiano New York, i risultati raggiunti a Copenaghen non sono banali, sia data la complessità della questione, sia date le differenze di punti di vista tra i paesi ricchi e i paesi poveri. Obama merita, a questo proposito, ecco la dichiarazione che vi dicevo, gran parte del credito per questi risultati. È arrivato mentre i colloqui stavano andando a pezzi, ha speso 13 ore in negoziati non stop e ha fatto la parte del duro nei confronti dei cinesi, mentre il tempo era ormai, no, vicino allo scadere, con l'aiuto di Cina, India, Brasile e Sudafrica ha dato vita a un accordo che tutte tranne pochissime delle 193 nazioni convenute alla fine hanno accettato. Ci sono due chiavi all'accordo di Obama, secondo il New York Times. Una è stata quella, viene definita la drammatica, la potente offerta di 100 miliardi in aiuti per le nazioni meno industrializzate, per aiutarle, per contribuire all'operazione di ripulitura, no? di liberazione dalle principali fonti di inquinamento. E la seconda chiave del relativo successo del meeting è stata l'accettazione da parte della Cina di sottomettersi a un sistema di verifiche che chiarisca veramente il ruolo, no? del nuovo paese che per aggressività e produzione rappresenta indubbiamente l'altro versante del bipolarismo con gli Stati Uniti d'America. La trasparenza, sottolinea ancora l'articolo del New York Times, è la parola chiave di questo vertice e diventerà ora la parola chiave anche dei ragionamenti che attorno ad essi si faranno in congresso. Vi cito soltanto, per chiudere questa parte, per chiudere questo argomento, invece un messaggino via Twitter che Sara Palin, possibile candidata 2012 al Partito Repubblicano, ha mandato attorno alla questione di Copenaghen. Questo è quello che Palin manda a dire ai suoi seguaci. Dice: Copenaghen è uguale all'arroganza dell'uomo che crede di poter influenzare i cambiamenti della natura. L'uomo deve essere un buon testimone di Dio sulla terra, ma l'arroganza e l'ingenuità dell'uomo risiede nel dire che possa essere sovrastata la natura. La terra cambia clima da milioni di anni e continuerà a cambiare. Il nostro dovere è produrre uno sviluppo responsabile per il genere umano, non inquinare, non distruggere, ma di sicuro noi non possiamo cambiare il corso della natura. Come dire, si prospettano per le ormai non lontanissime presidenziali due punti di vista veramente lontani, lontani, lontani. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. In his place is a new bird. He sings a love song as we go along. Snowman, then pretend that he is passing round. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face and afraid the plans that we've made, walking in a winter wonderland. Buongiorno America. You know that everybody's calling you a loser? You ever wonder at what point you gotta stop living up here and start living down here? Questo è un duetto che piacque molto anche al pubblico italiano, un duetto fra Eminem e Brittany Murphy, che fa parte di un film autobiografico scritto appunto dal rapper di Detroit intitolato 8 Mile, e grandissima impressione ha destato sui media, nel pubblico americano, l'improvvisa scomparsa a soli 32 anni per l'appunto di Brittany Murphy, la ragazza attrice che di quel film era la coprotagonista, ma che era stata già in passato, prima dell'uscita di 8 Mile, protagonista di altre pellicole che erano piaciute molto, soprattutto al pubblico giovane americano. Ne cito solo un paio. Una si chiamava Clueless ed era il film sull'edonismo, sugli happy days americani anni anni 90, una fase di tranquillità, di felicità giovanile che dopo, no, tutte le agitazioni che vennero bollate in diversi modi, lo slacherismo, la generazione X invece riportò un po' di serenità nell'America che si riscopriva consumista, gioiosa, tutto sommato fortunata. Ci fu questo film che fu un hit straordinario, ebbe anche discreta eco in Italia, e Britney era nel cast insieme ad Alicia Silverstone, che era la vera e propria protagonista del film. La scomparsa della Murphy è ancora circondata da diversi interrogativi. È morta in casa, è stata trovata dalla madre morta in bagno, nella doccia. Pare che da alcuni giorni stesse male, pare fosse storicamente perseguitata da una forma piuttosto seria di diabete. Pare che la sua carriera stesse andando piuttosto male, quasi a rotoli, se è vero che dall'ultimo set nel quale era stata coinvolta era stata poi rapidamente allontanata e licenziata per condotta non conforme alle regole di Hollywood. Attorno a lei, non a caso, a più riprese sono girate voci piuttosto inquietanti relative soprattutto al consumo di stupefacenti. Di sicuro, morendo giovane, Brittany Murphy si iscrive a quel club non particolarmente ristretto di attori, di volti, di personaggi, di simboli destinati a restare per sempre giovani, per sempre tali, no? L'ultimo che l'aveva preceduta di pochi mesi è Heath Ledger. Già vedete di quale culto sia ormai circondato. Poi ce ne sono tanti altri, un nome per tutti, quello di River Phoenix, ancora indicato come prototipo dell'adolescente americano, anche se fosse vero, vivo oggi avrebbe 40 anni suonati. Ebbene, Brittany, tra l'altro, curiosamente è figlia di un padre italiano, Angelo Bortolotti. Questo è il nome Bertolotti, il nome del papà, che è stato anche raggiunto dai media americani e intervistato. Un tipo poco raccomandabile, un criminale seriale con un sacco di trascorsi, soprattutto relativi al traffico di stupefacenti all'attivo. Lei ha preso il cognome della madre, che era invece irlandese. Una scomparsa che comunque appunto segna in modo doloroso questo anno di Hollywood, dove viene ribadito il fatto che davvero si può morire giovani. The concept is to drive these remotely controlled bodies called avatars. Altrimenti si diventa registi adulti e di estremo successo, come è capitato a James Cameron, e ci si mette un numero indeterminato di anni per partorire il film della sua vita, che si chiama Avatar, che è finalmente uscito nel weekend in America e ha ottenuto quello che viene giudicato dagli addetti ai lavori un discreto successo, quasi mediocre. Insomma, ha fatto 73 milioni di dollari solo negli Stati Uniti e più oltre 200 nel mondo, 232 nel mondo, nei paesi dove è uscito, ma questo non viene ritenuto all'altezza dell'ambizione del prodotto in questione, che presto naturalmente consumeremo anche dalle parti nostre in 3D, con tutte le diavolerie tecnologiche che contiene. Rappresenta comunque il miglior debutto di tutti i tempi per un film in 3D, il secondo miglior debutto dicembrino per quello che riguarda tutti i tempi in America. Segue I Am Legend, ma c'è anche una certa perplessità, anche se gli esperti dei lavori osservano che bene o male è un film destinato a durare tanto. The reforms I'm proposing would not apply to those who are here illegal. Uli, Uli, non so se ve lo ricordate, Uli, deputato Joe Wilson, repubblicano del South Carolina, che davanti a un roboante Barack Obama disse balle, in pratica, che tu menti, insomma. Perché vi ritiriamo fuori questo pezzettino? Perché il The Politico, il quotidiano che seguiamo con molta attenzione relativa all'America di di Washington, delle cose appunto di politica. Oggi si è concesso un altro di quegli articoletti tipicamente natalizi di fine anno, ovvero le migliori frasi, o con le migliori, le memorabili frasi del 2009. Ne ha messe in colonna una serie e ci siamo divertiti a rileggere per esempio Sarah Palin, che dice: l'America che io conosco, ma seconda volta citiamo Sarah Palin in questo programma, devo dire, dovrà renderci conto, insomma, l'America che io conosco e che amo non è quella nella quale i miei genitori o il mio bambino che ha la sindrome di Down deve pensare di doversi presentare di fronte a una commissione della morte, death panel, no? con addentellati alla questione sanitaria, la questione aborto, in modo che i suoi burocrati possano decidere in base a un giudizio soggettivo e al suo livello di produttività nella società, se deve vivere e se ha diritto alla sanità, un'assistenza sanitaria. Oppure ancora il professore, un'altra frase memorabile, il professore Henry Louis Gates, che viene arrestato fuori dalla porta di casa perché non ha la chiave, sta cercando di scassinare casa propria, ai poliziotti che lo vogliono portare in questura per accertamenti, dice: perché io sono un nero in America? Oppure uno degli eroi dei talk show dell'anno, amato, odiato come nessun altro, il foxistas, così lo chiamano adesso i giornali americani, ovvero l'uomo con la pelle di volpe, ma anche l'uomo della Fox, l'uomo di punta della Fox, di Murdoch, che dice questa cosetta. I'm saying he has a problem. He has a... This guy is, I believe, a racist. Allora, il guy in questione è Barack Obama e l'appellativo che gli ammolla il nostro Glenn Beck è quello di razzista, così tanto per come si dice, sparigliare, no, le carte sul tavolo. Ma ce ne sono tanti, alcuni dei quali veramente interessanti. Per esempio, quando il deputato Barney Frank, un democratico del Massachusetts, nel corso di un dibattito in una piccola cittadina, si sente sottoporre la domanda da parte di un membro del pubblico: ma lei paragonerebbe Obama a Adolf Hitler? E lui risponde, dice: ma tu su quale pianeta vivi? Questa è la risposta di Barney Frank. Oppure ancora la famosa gaffe di Obama, che dice: so giocare a bowling, beh, come un handicappato, e vai naturalmente con le critiche. Oppure la punta migliore del femminismo americano 2009. Wait, you want me to tell you what my husband thinks? My husband is not the Secretary of State, I am. Questa è Hillary che risponde a un giornalista, cioè: tu mi stai chiedendo che cosa pensa mio marito su questa questione? Vorrei ricordarti che mio marito non è segretario di Stato. E tante altre, fra cui: noi siamo invitati, non vogliamo entrare di straforo, detta dai coniugi Salai. Questo è l'anno 2009 in America, raccontato di notte e di giorno a Buongiorno America, qui dal sottoscritto Stefano Pistolini, in redazione Gloria Guerrero, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Carmelo Lauricella, la mail è buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook redazione Jefferson 3, la replica dopo mezzanotte, la diretta dopo 1:30 domani qui su Radio 24. State benissimo. Scoop, scoop, scoop, scoop, scoop.